Chico tu chico, watashi tashi no kokoro wa ira temi mashu. Kako mi temi mashu. Mirao mi temi mashu ga. Tori wa ke. Kensao mi temi mashu. Watashi tashi no kokoro wa ira temi mashu. Nani ga dekire no kami temi mashu. Anata ga mire koto ga dekinai mono mi temi mashu. Anata ga mitai mono mitemimashu. Shiko tu shiko wo wonte ki ni kangare. Mani chi kangare. Uyu soka. Watashi tashi no kukuru wa iratenimashu. Kanona kagiri. Fukanona. Sukeruda. Watashi tashi no kukuru wa iratenimashu. Mani shi suwete yume. Suwete no yuake. Watashi tashi no kukuru wa irate animashu. Reyo de wa. Sure ga sogo. Nikan keinaku. Fura to deru to. Keshai deru to. Sare na muge mata wa kan kensu desu. Shiko tu shiko kangero tameni. Watashi tashi no kukuru wa teshinao. Kangeru tameni. Dereremo. Renshu. Horisu. Shimasu. Watashi tashi. No kokuro wa irate. Mimashu. Kako mite mimashu. Mirao mite mimashu ga. Tori wake. Gensao mite mimashu. Watashi tashi no kukuru wa irate mimashu. Nani ga dekire no kamite nimashu. Anata ga mire koto ga dekinai mono. Omite minashu. Ana ga mitai mono. Omite minashu. Shiko tu shiko wonte kine. Kangare. Manishi kangare. Yusuko. Manishi kangare. Yusuko.